Rock Wave Live. Ok, buonasera a tutti, buonasera da Rock Wave, buonasera da Maurizio Calzavara, da Marco Borgato in regia e buonasera a Roberto Scipa. Buonasera a tutti. Come stai? Bene? Molto bene. È arrivato direttamente bene. Da Roma, in treno però. In treno. Visto che sta nevicando, adesso in treno eri sicuro al 100%, hai fatto un buon viaggio sicuramente. Perfetto. Hai visitato quello che hai potuto qualche ora a Padova. E... sì, due ore. Volanti sotto la pioggia. Esatto, e da Verollone è arrivato con la chitarra e la neve e va in radio, a piedi. Fradicio a piedi, e questo è bello, essere l'owner così. Ok, hai cominciato a suonare la chitarra molto presto, perché tuo papà amava il blues. 14 anni hai già cominciato, in famiglia si suonava e tu suonavi la chitarra a 14 anni, è così? Sì, è così. Mio padre era un bluesman. Bello essere bluesman. Bluesman dannata, quindi dannata. Ecco, anzi, lo saluto perché tra l'altro... Salutiamo. Probabilmente via internet forse ci possono sentire in qualsiasi parte del mondo. Sì, quindi ho avuto la fortuna, ecco, di vivere, insomma, di crescere in una famiglia dove la musica è sempre stata... una fonte molto importante. Insomma, ecco, quindi mio padre era un chitarrista, un amante, insomma, dei Rolling Stones, dei vari grandi gruppi degli anni 60, degli anni 70, e poi anche dei cantautori, insomma, ecco. Ti sei forgiato, insomma, musicalmente così, hai cominciato ad imparare, a sentire soprattutto. Esatto, sì, perché poi alla fine penso che uno impari ascoltando principalmente, ecco. Quindi esatto, impara ascoltando. Si impara ascoltando. E sì. Musicalmente... copiando. Copiando, ma sì, ispirandosi, dai, ispirandosi. Possiamo dire così. Il copiare è proprio una parte dell'apprendimento all'inizio, sì, più giusto. Piccoli, All'inizio, non dopo però. No, dopo no. Cioè, c'è chi lo continua a farlo. Esatto. Chi continua a farlo. Sì. Anche se però dice, no, io non copio. Beh, noi lasciamo... potete immaginare, cari ascoltatori, chi può essere. Lasciamo perdere. Ok, allora, quindi musicalmente hai cominciato a suonare la chitarra, ad introdurti. Introdurmi e a scrivere. E a scrivere. La mia altra grande passione è sempre stata quella della scrittura. Quindi, ecco, cercando di arrivare alla poesia, ecco, quello è quello che mi prefiggo ogni volta quando insomma mi accingo magari a suonare, a scrivere. Ecco. Sì. Tu hai cominciato a suonare a 14 anni la chitarra, ma hai cominciato a suonare anche in qualche band, in qualche gruppetto come si usava una volta? Sì, quindi i primi periodi, insomma, erano periodi dove si suonava facendo cover, quindi... Ti ricordi che cover? Riproducendo... Ma passavo un po' di tutto. Passavamo dai Pink Floyd a... Non so, a... anche qualche pezzo del vecchio Vasco, era un po' qualunque cosa in quel momento, ecco, ci piacesse, insomma. Tu eri l'elettrica o all'acustica? Io ero all'elettrica. All'elettrica, mi pare giusto che tu eri. Sei un loner, non puoi, sì. Anche se il loner è all'acustica, però qualche volta può capitare. Diciamo che nasco all'acustica, insomma, la chitarra con la quale ho iniziato a suonare era un Ibanez Concord degli anni 70. La citiamo questa, come poi ripetere. Un Ibanez Concord degli anni 70. Quindi, che ce l'hai ancora? Che ho ancora, che ho ancora ed è... Sì, questo legno vecchio che profuma. Ecco, bello, hai detto questo legno che profuma, perché la chitarra profuma, c'è poco da fare. La chitarra profuma, sì, profuma. E più è vecchia, più... come il vino, insomma. Esatto. Ottima, insomma, praticamente. E da Ibanez cosa sei passato? Il tuo campionario delle chitarre. La Ibanez, diciamo così... mi piacerebbe poter dire di avere decine di chitarre, questo però non è proprio così. La Ibanez sono passato a una Washburn, anche se era una semiacustica, insomma, era una chitarra un po' particolare, però insomma mi ha accompagnato per un periodo importante. E un po' di anni fa sono arrivato poi a un acquisto notevole, che è la chitarra poi che ho anche qui in questo momento, che è una Cort. Un modello, insomma, molto, molto speciale. Ecco, vedi, per gli appassionati che sono all'ascolto, ecco, hanno già capito praticamente. Sì, è una buonissima corte. Sì. Benissimo. Quindi musicalmente hai forgiato le tue cose in questa maniera e hai cominciato a capire, a imparare, soprattutto a pensare di fare un tuo disco dopo. Sì, poi chiaramente un po' di tempo, con calma. Ho iniziato a scrivere canzoni, quindi questo... più o meno all'età di 15-16 anni, e quindi ecco, ho passato tutte le varie fasi, quindi c'è stato un periodo per esempio dove ero pazzo di Bennato, e quindi ti influiva lui. Mi influiva lui, e quindi ecco, quelle, le prime cose che uscivano erano insomma su quella direzione lì, ecco, un po'... Molto sul sociale. Sì, sì, anche. Certo. Anche sul sociale. Sì, sì, quindi anche un po' così scanzonate. Sì. Scanzonate, però, perché come sappiamo che Edoardo è scanzonato, sì, però... Sempre dice le cose sua, sempre nei punti giusti, sì, quando sì, vuole, sì. Quando lo faceva. Adesso un po' meno. Molto meno, sì. Però, sì, insomma, lo ha fatto. Però, ecco, insomma, è un artista al quale sono affezionato. E quindi ho iniziato a scrivere le prime canzoncine, molte delle quali, insomma, abbastanza, diciamo così... sperimentali. Sì, sperimentali. Ecco. E a un certo punto sono iniziate a nascere delle canzoni che pur rimandando, comunque pur facendo intravedere delle influenze, alla fine sentivo che facevano parte del tuo io. Di me, del mio io, esatto. E quindi da lì sono nate sempre di più, e alla fine ho raggiunto un numero tale per cui ho detto... Facciamo qualcosa perché secondo me ne vale la pena, ecco. Diciamo... E facciamo qualcosa, si chiama Vagando Dentro praticamente. E quindi ed è nato quindi questo primo disco al quale ho dato questo titolo, Vagando Dentro, che è anche il titolo poi di una canzone, sì, del disco. Vagando Dentro perché vuol dire che è una ricerca in te stesso, sì, tra il cuore e la mente, cioè la ricerca proprio, un viaggio nel tuo io. È un esatto, è un viaggio, è come un diario di viaggio intimo, quindi... Le atmosfere del disco sono principalmente acustiche, sì, cantautoriali. Cantautoriali, ecco, quindi ci sono poi anche degli excursus un po' leggermente diversi. Esatto, ci sono insomma delle sferzate anche un po' più roccheggianti, sì, certo, in alcuni brani, ci sono dei pianoforti, dei violini che entrano, però ecco, sempre in modo molto delicato. Sì, delicato, mai oppressivo. Cioè. Esatto, perché poi ecco, ci sono dei pezzi, io penso, ecco, una cosa che voglio dire. Dimmi. Che anche con una chitarra sola, e con una voce, con una chitarra sola, si può essere molto molto taglienti. Ed arrivare, ecco, ed essere molto taglienti, e quindi essere anche rock, se vogliamo. Certamente. Ecco. Quindi non bisogna avere una chitarra elettrica distorta, no, insomma, per poter arrivare, no, proprio all'essenza, no, arrivare alla... I puristi citano sempre i concerti che all'epoca fece Jeff Buckley, aveva un'acustica a Parigi. Una roba incredibile, aveva un'acustica, però con un'acustica sembrava fosse un'elettrica, cioè la forza che aveva nel presentare i suoi pezzi acustici per modo di dire, era una forza dirompente, e questo era. Certo, perché poi la dimensione acustica poi è comunque una dimensione più effettata naturale. Finché vuoi, ma sempre un'acustica. Certo, sì sì, poi comunque la dimensione acustica in generale è proprio la dimensione naturale della musica, dove le corde della chitarra suonano, ecco. E non ci sono filtri, ecco, diciamo, tra... Anche Kurt Cobain, famoso MNT Unplugged, ti ricordi? Sì, sì. È un grandissimo disco quello. Certo, sì, loro li preferisco elettrici, diciamo. Però qualcuno ha detto che lì MNT Unplugged, sì, dei Nirvana, sì, sì, non so, sì, se Marco è d'accordo, ha dato un segno, ha cominciato un'altra fase. Sei d'accordo, Marco? Sì. Dimmi. Ah sì, è d'accordo anche lui. Okay. Adesso cominciamo una tua fase, sentiamo un pezzo dal disco. Cosa hai scelto, okay, Roberto? Allora, come pezzo d'apertura ho scelto, credo, Il mio corpo di cristallo, che è la traccia numero 3, credo. Che tra, sì, l'altro, sì, è la traccia numero 3. Marco conferma, la traccia numero 3. Ok. Vuoi parlarne prima? No, okay. La sentiamo, facciamo, e dopo ne parliamo. Andare. Ok. Rock Wave Live. aria e sangue, il mio corpo di cristallo soffre e fa domande. Carne e ossa, aria e sangue, il mio corpo di cristallo, la magia più grande. Luce densa nelle mie vene, dove sostanze ed emozioni danzano insieme al ritmo di un cuore tamburo che batte il tempo per lasciarmi ancora vivo. Che batte il tempo per lasciarmi ancora vivo. Che batte il tempo per lasciarmi ancora vivo. Rock Wave Live. Ok, allora Roberto, presentiamo questo pezzo. Prima abbiamo solo dato il titolo. Sì, allora, il mio corpo di cristallo lo definisco come un mantra, ecco, un mantra. Un mantra, perché in realtà è un giro che si ripete all'infinito. All'infinito, sul quale poi si aggiungono elementi. Si sovrappongono musicali sempre di più, esatto. Sempre di più, esattamente. E dal vivo, dall'altro, poi mi piacerebbe suonarlo più tardi. Certo. Dal vivo uso un pedale che si chiama Loop Station, che appunto mi permette di campionare questi giri e di sovrapporre. Tu hai avuto l'idea di questa, anche dall'approccio, oltre al testo che è molto interessante, ma l'approccio che è musicale, l'idea dove è partita? L'approccio musicale, se ti dovessi dire la verità, non ti ricordi. In questo momento non mi ricordo, probabilmente credo che sia nato all'inizio con questo giro, questo giro di chitarra. Credo di averlo composto poco dopo che mi comprai questo pedale. Questo aggeggio qui. E quindi ecco, mi sono divertito, sì, un po' a giocare. E alla fine è uscito questo pezzo. E questo, tra l'altro, è anche uno dei pezzi, secondo me, più interessanti musicalmente, ecco, del disco. Nel senso che anche se vogliamo meno cantautoriale. Quindi, sì. Dove il testo è anche, come dire, parliamo del testo. Il testo è un testo un po' visionario, ecco. Quindi sono delle immagini. È una canzone che io quando la suono dal vivo la presento dicendo che è un pezzo dedicato al corpo, ai nostri corpi, che sono la nostra casa alla fine. E sono qualcosa di molto fragile in realtà, come il cristallo. Come il cristallo. Da qui l'immagine. Il cristallo, e allo stesso tempo però molto, potenti, insomma, che hanno una quantità di delle potenzialità, sì, tante infinite, possibilità, anzi, tante, tante delle quali anche inespresse, certo, certo, certo. Quindi, quindi ecco, è una, sono delle immagini che descrivono, ecco, questa le immagini che descrivono il corpo sempre in un modo un po', ecco, se vogliamo, un po' tra il metafisico e il reale, insomma. Sì, e queste potenzialità che ce ne sono tante, musicalmente dà proprio l'esatta sensazione di una musica che non si ferma mai, che continua, esatto, che si sviluppa continuamente, che si allarga, si restringe, esatto. Non trova una posizione ferma. Esatto, come un flusso. È un flusso, no? Continuo. Un flusso continuo, e tra l'altro, ecco, appunto, ci sono delle immagini anche qualcuno potrebbe dire un po' psichedelica. Esatto, esatto, sì, sì. Infatti è forse il momento più psichedelico del disco. Del disco. Ed è un punto, quindi un pezzo dedicato al corpo che comunque, ecco, racconta anche quella parte anche più in qualche modo più selvaggia dell'uomo, insomma, anche c'è, cioè, questa immagine del cuore come un tamburo che batte per lasciarmi ancora vivo, ecco. Certo, capito. Quindi, ecco, non so, adesso mi faceva pensare poi agli indiani d'America, insomma. Sì. Comunque questo ecco. È il significato, praticamente. Sì, ecco, poi penso che poi. Poi tu lo dici, tu hai ripetuto prima che dal vivo dà molta sensazione. Piace. Dal vivo questa piace molto. Sì, poi lo faccio durare molto di più perché. Sì, molto, lo allunghi, praticamente. Lo allungo molto. E tra l'altro la cambio anche un po'. Ah, quindi è uno dei pezzi che sinceramente mi diverte di più suonare dal vivo. Perché posso sperimentare, posso aggiungerci soli. E poi più che altro me ne vado proprio. Ah, ho capito. Quando la suono me ne vado, è come se andassi un po' in trance, uh-huh. Diciamo. E quindi entro, ecco, in un mondo parallelo dove mi lascio andare. Tra l'altro, una cosa curiosa, così legata a un piccolo aneddoto legata a questa canzone, è che l'ultima volta che l'ho suonata al vivo l'ho presentata dicendo: adesso che ascolterete questo pezzo, andatevene, no? Allora ho detto: ok, andatevene con la mente, andatevene con lo spirito, con lo spirito, ma non materialmente, rimanete questo. Qui, quindi cercate di andarvene via con questo pezzo. E poi ho specificato, insomma, di un, certo, di un, sì. Piccola, no, sì. tutto non voluto, chiaramente, sì, chiaro, perché chiaro. Non sono un grande comico. Beh, sono 22:21, quindi tutto in diretta. Adesso ci prepariamo a rompere il ghiaccio, sarà il primo pezzo live. Ok, il primo. Ti metti l'armonica adesso. Intanto, da sì. Berollone, c'è, cioè, l'armonica, esatto, chiaramente. Quindi, perché nella copertina, cari ascoltatori di Roberto, è un Berollone, perché proprio Jim Strappati, molto americana, se possiamo. Esatto. Ti sei, sì, tagliato, sì, i capelli rispetto. Mi a sono tagliato, sì, sì. Sulla copertina avevo i capelli molto lunghi. Esattamente. Li ho tagliati e sì, il suono del disco è molto americano. È molto americano, sì, nel, sì, senso, sì, positivo del termine. Certo, certo, certo. Quindi, insomma, West Coast. Sì. I riferimenti tuoi, ma poi ne parleremo dei tuoi riferimenti. Okay. Questo, ecco, lo considero uno dei, così, dei singoli, ecco, dei pezzi un po' più orecchiabili del disco, insomma, che comunque e quindi, ecco, dal momento psichedelico si passa a un momento un po' più melodico, pop, melodico, più pop, sì, ecco. Sì, diciamo così, più pop. Ok, e per fare questo pezzo cambierò microfono. Ok. Il pezzo si intitola La testa che gira a vuoto. Che gira a vuoto per il lavoro che non trovo, per l'amore che scivola via dalle mie mani. Ho la testa che gira a vuoto per una casa che non trovo, per una bussola che ho perso per essere diverso. Ho la testa che gira a vuoto, rifletto tanto, dormo poco. Mi sveglio ogni mattina immaginandoti vicina. Ho la testa che gira a vuoto quando mi cerco e non mi trovo tra l'elenco dei vincenti di chi sta al passo con i tempi. Certo che lo faccio per necessità, equilibrista su una storia, stringendo i denti senza gloria, in questo pallido presente mi rialzo silenziosamente. Che gira a vuoto perché non sempre c'è uno scopo, ma la mia miglior parte cresce nell'ombra poco a poco. Ho la testa che gira a vuoto, a volte penso che sia un gioco, sentendomi disperso scopro dentro l'universo. Ok, benissimo. Più che pop, a me sembrava anche bagnata di blues sto pezzo. Cosa dici? Beh, sì, il blues non manca mai. Non manca mai. È un bel pezzo, decisamente. Già l'uso dell'armonica bagna il blues, sicuramente. Sì, sì, non è che allontani il pop, però c'è anche del blues. Sì, in realtà dal vivo la come la fai dal vivo? Appunto, la suono con l'armonica, ma sul disco al posto dell'armonica c'è un violino. Esattamente. C'è un violino che dà una dimensione leggermente diversa. Esatto, forse. Esatto. La rende un pochino, ecco, un po' più raffinata, se sì, vogliamo. Più raffinata. Però ecco, ultimamente forse mi piace quasi di più con l'armonica, ecco, ritorni ai tuoi amori praticamente. Sì. Ritorni ai tuoi amori. Sì, diciamo che i tuoi amori, un critico di tanti critici, a proposito, il disco è stato recensito da parecchia gente, nel senso molto positivo del termine, e questa è una bella dote per te. Sicuramente sarai stato soddisfatto di questo approccio da parte delle riviste musicali, tutte molto positive. Dobbiamo anche sottolineare che tu sei stato selezionato Musicultura, e questo è molto importante. Musicultura è forse l'avvenimento più significativo per il cantautorato italiano. È stata un'esperienza molto, molto, molto bella. Tra l'altro, il caso vuole che suonai intorno a febbraio, quando ci fu una nevicata pazzesca. Perfetto. Non è come qua, ma no, non è come qui, però ecco, evidentemente c'è qualcosa che mi porto dietro. Esattamente. Quindi mi ricordo ci misi più o meno 13 ore per arrivare a Macerata. Da Roma, in un viaggio della speranza in autobus che mi ricordo penso per tutta la vita. Quindi arrivai, no, non sto scherzando, no, arrivai 20 minuti prima di esibirmi. Che partì alle 9 di mattina, mi ricordo. Arrivai alle 9 di sera, 20 minuti prima di salire sul teatro di Macerata, insomma, dove c'erano le selezioni. E quindi ecco, è stata una prova, non so, una prova, io la definisco come una prova veramente quasi spirituale, nel senso, quindi riuscire a ad essere concentrati e a dare comunque il meglio di sé, nonostante appunto fare un viaggio di 15 ore. Insomma. Spaventoso. Però ecco, però in generale, a parte così questo aneddoto climatico, insomma, comunque è stata un'esperienza molto, molto interessante. Poi ecco, chiaramente è una situazione quindi dove viene veramente, insomma, dove tutto viene curato nei minimi dettagli, sì, e sì, soprattutto l'aspetto musicale è quello che più piace. È quello, ancora un festival serio, esatto, assolutamente quello, sì. Fino adesso è quello, insomma, appunto più importante. Più importante, sì. Dove ho partecipato, comunque, dove sì, sì, no, sicuramente un bellissimo ricordo. Poi chissà che in futuro, ecco, non si sa mai, non ci ripartecipi. Appunto. Si può sempre tentare, chiaramente. Certo. E cosa hai, in quel momento, che cosa hai presentato? In quel frangente presentai questo pezzo che ho appena suonato. Tra l'altro andai da solo anche lì a Musicultura. Avevo presentato appunto tre pezzi che sono contenuti nel disco. E alcuni dei quali sono sul disco in una versione comunque più arrangiata. Quindi in realtà andai in Musicultura rifacendo gli stessi pezzi, tra cui questo, in una versione invece decisamente scheletrica, esatto, da Loner. Da Loner, quasi anche un po' come una sfida, non so, come, un po' per necessità, perché non è facile spostare musicisti, amici musicisti, esatto, anche se sono amici, sì, perché, sì, sempre musicisti sono, esatto, musicisti, insomma, non è facile spostarli, perché comunque poi trovo tra i lavori ed altre cose, poi ecco, insomma, e non è facile, appunto, insomma, trovare un accordo, insomma. E quindi per necessità molte volte anche, ecco, si suona da soli anche a volte anche per motivi economici, anche perché, quello mica perché è una cosa importante, perché la situazione è abbastanza, e com'è la situazione adesso dei concerti? È abbastanza drammatica, è molto drammatica, è abbastanza drammatica, e ecco, e diciamo, io mi sento in qualche modo fortunato, perché comunque le ossa me le sono fatte da solo, nel senso, comunque la maggior parte delle canzoni sono nate con la mia chitarra da solo nella stanza, quindi sento di poterle riproporre in one man band, e comunque di trasmettere, di riuscire a dare di riuscire a dare quello che voglio, ecco, quando magari per esempio ci sono vari artisti, band che chiaramente invece possono proporre il loro progetto solo appunto come band, quindi io sento di poter comunque, ecco, dare molto anche da solo. Certo. Benissimo. Ora vi ricordo, state ascoltando Rock Wave con Roberto Scippa come protagonista, che sta presentando Vagando Dentro con regia di Marco Borgato. Allora sentiamo un altro pezzo da disco. Cosa hai scelto, quell'altra traccia? Un altro pezzo da ascoltare. Da ascoltare, sì. Allora, da ascoltare ho scelto. Ah, ecco, volevo. Non parliamo di questo. No. Volevo fare ascoltare questo pezzo che ho appena suonato nella versione del disco, che è uno dei pezzi tra i 3-4 pezzi arrangiati, ecco, del disco. Adesso sentiamo la differenza. Sentiamo, perché... così possiamo farci un'idea. Esatto. Chiaramente. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Immaginandoti vicina, ho la testa testa che gira a vuoto, quando mi cerco e non mi trovo, tra l'elenco dei vincenti, di chi sta al passo con i tempi. Per necessità, equilibrista su una storia, stringendo i denti senza gloria, in questo pallido presente mi rialzo silenziosamente. Testa che gira a vuoto, perché non sempre c'è uno scopo, ma la mia miglior parte cresce nell'ombra poco a poco. Ho la testa che gira a vuoto, a volte penso che sia un gioco, sentendomi disperso scopro dentro l'universo. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Caro Marco, questo è il pezzo che ama particolarmente il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che ti ha voluto fortissimamente stasera. Anzi, e lo ringraziamo. Saluto, ciao Alberto, grazie di avermi invitato. Ha fatto bene, assolutamente, siamo perfettamente d'accordo. Il violino qua lo suona Alessandro Gilardi. Sono Gilardi. Bravo, bravo, decisamente bravo. Bravo, napoletano. Napoletano. Napoletano, è un po' che non ci sentiamo. Ma comunque colgo l'occasione per salutarlo. Lui, per un periodo ci siamo fatti un bel po' di live in duo. Eravamo lui suona il violino sempre? Esatto, violino e io so la chitarra, beh, la chitarra. Lui al violino e ecco, da questi live poi alla fine è nata questa canzone. L'idea di questo pezzo e gli ho proposto appunto di riprodurre il riff con il violino e insomma l'effetto ci convinceva. È un effetto che entra immediatamente. Esatto. Al di là, cioè, tu prima l'hai eseguito con l'armonica. L'armonica non è che sia riduttiva, però dà in un'altra direzione, lo sposta. Invece il violino dà quell'aspetto di musica popolare, di movimento. Ecco. Sì, quindi ecco, folk, un violino, ecco, in chiave folk. Sì, in chiave folk. Diciamo. In chiave folk sì, è un pezzo che... come dire, è un pezzo definisco leggero nel senso buono del termine, quindi sì. Ecco che comunque scorre molto molto fluido, un testo molto semplice, sì. Però molto anche si comprende tutto molto immediatamente, ecco, sia il testo che la musica. Questo credo sia uno dei pregi. Sì, perché fare il cantautore bisogna... Capita, però bisogna anche sapere cogliere i pezzi, non difficili anche, ma anche quelli accattivanti nel senso positivo del certo. termine, che entrano dentro in mente. Certo. Nel concerto, nella scaletta, dov'è posizionato questo pezzo? Ma questo pezzo, ma più o meno di solito lo suono verso metà. Metà. Nel senso, come dire, parto un po' forte, diciamo. Sì. Quindi un pezzo un pochino più incisivo. Più taglienti. Poi poi di solito faccio un momento un pochino più psichedelico, particolare. E poi questo pezzo, come dire, è come il pezzo che alleggerisce la scaletta, quindi sì. Che riporta... È una trade union tra brani precedenti e i brani che seguiranno. Sì, e quindi, come dire, ammorbidisce, no? Ritorno in una, come dire, in una dimensione più accogliente. Ho capito, diciamo. Ho capito. Quindi anche il testo, ecco, appunto, è molto... uso l'aggettivo infantile, ma per me in senso positivo, nel senso infantile perché si capisce, esatto, immediatamente, si capisce immediatamente. E io personalmente non amo molto così proprio quegli artisti che insomma, che si fa che usano un linguaggio un po' troppo sopra le righe, ecco. Troppo ricercato, no, sì, non neanche ricercato. Non è una questione, perché, non è una questione ricercato, perché, per esempio, io amo De André, uno come De André, quindi è ricercatissimo, esatto. Cioè, o De Gregori lo stesso, esatto. Però la loro grande, la loro forza è che la poesia in realtà è qualcosa che viene percepita poi da tutti, fondamentalmente. Sì, certo, certo. Questa è la grande, non, il grande paradosso. Insomma, la poesia più alta spesso viene comunque, magari non da tutti nello stesso modo, ma comunque tutti quanti riescono a coglierla. Ci sono invece degli artisti che, fluttuando sopra le righe, usando quindi un gergo molto, molto ricercato, poi alla fine personalmente risultano... Si passano. Forzare, esatto, sì, passano. Sì, passano non vengono recepiti, esattamente, rimangono là. Diventano così, diventa una ricerca fine a se stessa. Esattamente. Insomma. E quindi ecco, io ho un approccio molto istintivo con la musica e anche con i testi. Certo. Anche se poi però... una canzone è in realtà poi un è il frutto di un lavoro poi molto molto certosino, nel senso che poi c'è proprio una scultura che viene modellata. Non si butta, cioè si deve trovare. La canzone non è una cosa semplice. Quando uno fa un pezzo lo pensa, lo costruisce in una certa maniera, perché deve essere così, deve sentire, deve farsi sentire, perché quello pensa a lui, certo. Di farle sentire al pubblico. E anche per quanto riguarda il testo. È soprattutto per quello. C'è proprio un lavoro, alcune volte, più di togli e metti, sì, una parola. Ma deve essere, non è così semplice, è molto complicato. Poi col tempo, insomma, facendo, ci si allena e diventa più semplice, però è sempre un po' un piccolo miracolo. Certo, al di là di questo, adesso quel pezzo che suonerai fra qualche secondo è un pezzo che è molto forte, è un testo importante. Sì, il pezzo si intitola Canzone al lavoro, scherzando, dico alcune volte che l'ho scritta perché non avendo un lavoro fisso, quindi avevo molto tempo libero, insomma, certo, da dedicare alla musica e al pensiero, e quindi un po' anche con un po' di rabbia, insomma, comunque è uscito fuori questo pezzo che poi è un po' una descrizione un po' naif del mondo del lavoro. Quindi magari preferisco prima suonarlo, lo sentiamo e poi ne parliamo, poi ecco, meglio suonarli, sì, pezzi, okay, prima di presentarli. Canzone al lavoro. Lavoro di noia, lavoro di fame, lavoro d'artista, lavoro normale, lavoro d'ufficio, lavoro da bestia, lavoro che va, lavoro che resta. Lavoro da solo, lavoro d'orchestra, lavoro di mani, lavoro di piedi, lavoro di testa, lavoro di mente, lavoro di schiena, lavoro da cavia, lavoro da iena. Mercato del lavoro, da una parte c'è il sudore, dall'altra tutto l'oro, è il mercato del lavoro, le regole del gioco, le regole del gioco le hanno sempre fatte loro. Lavoro di guardie, lavoro di ladri, lavoro di figli, lavoro di padri, lavoro di madri, lavoro che paga, lavoro che uccide, lavoro che piange, lavoro che ride, lavoro di terra, lavoro di mare, lavoro di aria, lavoro spaziale, il lavoro è un lavoro che fai su di te per cercare del buono dove non c'è, dove non c'è. Chi vive di ferro, chi vive di legno, chi vive di inchiostro, chi vive di carta, chi vive di ingegno, chi vive del sangue succhiato alla gente che dentro i salotti è chiamato vincente, nei loro salotti è chiamato vincente. Da una parte c'è il sudore, dall'altra tutto l'oro. È il mercato del lavoro. Ok, pezzo molto bello. Posso dire che dal punto di vista del testo ci può essere un aggancio, sia pure lì, così. Lo penso un po' alla Rino Gaetano dal punto di vista del testo. Musicalmente no, musicalmente sei te, ma dal punto di vista del testo questo continuamente forzare sul lavoro, dare le dimensioni del lavoro, che lavoro, in qual mondo di lavoro, e questo secondo me è molto alla Rino Gaetano, ma in senso positivo. Sì, no, assolutamente. Rino Gaetano è uno dei miei cantautori preferiti, quindi anzi l'approccio sociale, voglio dire, questo sì, certo. Tra l'altro ho usato comunque poi ho usato prima l'aggettivo naif, sì. che secondo me si adatta poi perfettamente anche proprio all'arte di Rino Gaetano, quindi che riusciva secondo me in modo appunto naif, insomma in modo stravagante, poi riusciva a parlare della realtà italiana in cui viveva, insomma, forse in un modo credo che un po' siano riusciti a descrivere in modo così tagliente, ecco, in modo così efficace. Sì, ma tu l'hai scritto bene, cioè in modo semplice, hai dato gli input giusti, hai spiegato con poche frasi che cosa pensi, com'è la situazione, come si vive il lavoro, nelle determinate facce, purtroppo non sempre positive, del lavoro stesso. Sì, non ho inventato niente. No, assolutamente, non hai inventato nulla. Nel senso che poi alla fine si tratta, ecco, di io ho poi è un elenco, ecco, se vogliamo. Sembra un elenco, ma non è un elenco così buttato a caso. No, assolutamente. È un elenco che ha una certa. Certo. Quindi quello che forse la strada, ecco, che ho percorso, insomma, comunque sono è questo elenco di lavori più o meno. Lavori, alcuni lavori, come dire, di vario tipo, insomma. Certo. Alcuni opposti, quindi sì, appunto, sì, certo. Non so, per esempio l'immagine del lavoro da cavia e lavoro da iena, da no? Iena, esatto. Quindi quello che cerchiamo fondamentalmente è comunque parlare del lavoro in modo poetico, nel senso ci sono artisti che secondo me, faccio una piccola parentesi, sì, certo, ognuno usa il suo modo, chiaramente. Cioè, secondo me non è importante solo parlare, ecco, di temi sociali, per carità, quindi come dire, per denunciare va tutto bene, quello che però credo che sia quello che faccia la differenza sia il modo in cui ne parli, nel senso che quando comunque riesci ad arrivare alle emozioni, insomma, della gente, lo fai sempre percorrendo delle strade non scontate, insomma. Quindi non sono uno di quelli che, come dire, che vuole fare denuncia sociale perché è trend, perché è di moda. No, per me è comunque, cioè, la ricerca poetica viene prima di tutto. Chiaro. Viene prima di tutto. Quindi poi chiaramente osservo la realtà che ho intorno, quindi il lavoro è chiaramente un tema oggi è importantissimo. Importantissimo, e poi in fondo è sempre stato, insomma, sì, un po' nella storia dell'uomo, insomma. Ecco, io poi, così, volendo fare una riflessione filosofica, insomma, se vogliamo, poi il lavoro, ecco, il lavoro dovrebbe essere un mezzo con il quale l'uomo si possa realizzare, invece spesso viene usato come un mezzo per distruggere l'uomo, ecco. E credo che in un futuro comunque più illuminato, ecco, dell'uomo, il lavoro sarà questo, sarà semplicemente la possibilità di realizzare tutto il proprio potenziale, ecco, insomma. Quindi, così, piccola parentesi, però, insomma, tornando al pezzo, quindi ecco, insomma, secondo me il modo in cui si dice una cosa poi definisce la cosa, definisce la forza del messaggio stesso, insomma. E ho notato questo stavolta, che è il testo che trascina la musica, secondo me. Sì, lo trascina, vero proprio punto di vista, la trascina letteralmente. Sì, esatto, come dicevi giustamente tu, c'è un richiamo a Rino Gaetano. È anche un pezzo che ma non è così musicalmente, non è così scheletrico come alla Rino Gaetano, come lo faceva lui, o meglio, in qualche altro momento no, però anche questo è un blues, insomma, è un blues, tutto sommato, quindi molto, ecco, insomma, si sente l'ego, ecco, lontano, cioè neanche troppo lontano di Dylan. Sì, certo, sì. Come dire, pensando un po' ai suoi dischi, soprattutto i suoi primi dischi, quindi dove insomma, appunto, faceva il Woody Guthrie della situazione. Esatto, il menestrello. Il menestrello, praticamente. Chitarra a mano, insomma, esatto. E quindi se ne andava, e quindi c'era questo flusso, no, di coscienza che partiva, quindi queste parole che fluivano, che se ne andavano, ecco. Lui per esempio ne usava veramente una marea, no? Esatto. A un certo punto poi, ecco, poi è uscito proprio fuori dalla forma, no? Poi ha cambiato tutto, cioè, però all'inizio giustamente si è ispirato a Woody Guthrie, il primo disco è molto ispirato a Woody Guthrie. Dicono i maligni che lui andava a trovare Woody Guthrie in ospedale per carpire i significati di testi. Al di là di questo, è un'ispirazione a Woody, è logico. Woody Guthrie è stato il più grande, il massimo dei loner americani. Sì, sempre singer. Dall'altra parte c'è Johnny Cash, che era l'uomo in nero, però grandissimo anche lui. Però due pilastri non senza musica. Beh sì. Quindi, ecco, insomma, questo, ecco, è uno. Questo che ho appena suonato, ecco, uno dei pezzi, comunque, ecco, che fa parte di quei pezzi che raccontano, sempre in un modo, vogliamo, un po' onirico, però comunque raccontano la realtà. Ecco la realtà delle cose. Adesso citiamo i musicisti, abbiamo parlato del violinista, che hanno partecipato e ti hanno dato una mano, perché il disco non è solo chitarra e voce, come abbiamo sottolineato, è chitarra ed altre cose. Ci sono alcune batterie, alcuni bassi. Allora, la batteria è stata suonata da Matteo Bultrini, che tra l'altro anche saluto, che tra l'altro è un ragazzo giovanissimo, ma a mio parere veramente, veramente bravo, insomma. Lui si sta... suona dalla mattina alla sera, letteralmente. Perfetto. È solo quello, ha dedicato la sua vita alla musica. Alla musica. Suona jazz principalmente adesso. L'abbiamo appunto. Mentre stavamo registrando il disco, sì. Tra l'altro, volevo salutare Sergio Serafini, che è, come dire, è un mio carissimo amico, che ha registrato il fonico che ha registrato e in qualche modo anche prodotto insieme a me il disco, insomma. Quindi senza il quale, ecco, questo disco non sarebbe uscito quindi lo saluto e lo ringrazio ancora, perché veramente ha fatto un ottimo lavoro. Ha fatto un ottimo lavoro e insomma mi ha anche supportato per un po' di mesi, un po' di tempo. E quindi ecco, stavamo registrando il disco, una volta sentimmo dall'altra sala questo ragazzo che suonava, che insomma ci piacque molto, mi disse: senti, ma se li proponiamo di registrarci qualcosina, qualche batteria. E quindi alla fine è nata questa, così, questa collaborazione, e quindi ha suonato le batterie. Tra l'altro in un pezzo del disco la batteria invece è stata suonata da non so se conosci I Latte Sui Derivati, il gruppo Greg Lillo, sì, certo. Il batterista del Latte Sui Derivati è un mio caro amico Paolo Di Razio, che saluto tra l'altro. Ciao Paolo, che tra l'altro lui è un personaggio, è uno scrittore di racconti pulp, insomma c'ha tutta una storia particolare. Ed ha registrato la batteria su un re, che è il pezzo che mi dicevi che molto bello, che poi non so, lo esegue o lo sentiamo? Ma quello, se non, no, quello io lo farò ascoltare. Lo facciamo sentire dopo. Sì. In scaletta. Ok, quindi ecco, ha suonato solo quel pezzo perché insomma c'era stava bene quello. Stava bene in quel pezzo, insomma, ecco. Ci eravamo conosciuti anche grazie a quel pezzo, se vogliamo, perché lui faceva parte della giuria in un concorso dove sentì quel pezzo, gli piacque tanto. Tra l'altro mi invitò ad aprire il concerto dei Latte Sui Derivati, e questo stiamo parlando del 2005. Una delle manifestazioni più importanti a Roma, all'Ippodromo delle Capannelle, dove tra l'altro io prendo con la mia chitarrina davanti a quanti? Un sacco a 5.000 persone all'Ippodromo delle Capannelle, quindi fu un'apoteosi. Poi tra l'altro tu mandiamo il pezzo, hai sentito pure Reno, è un pezzo di una certa intensità, certo, diciamo. molto intenso. Immagina aprire il concerto dei Latte Sui Derivati che insomma che fanno comunque musica demenziale, se vogliamo, ovviamente, no? Con un pezzo di quella di quel tenore e io così Mario in modo molto come si dice, incosciente, se vogliamo, perché comunque ero anche spontaneo. Così mi suonai questo pezzo e così fu, comunque insomma devo dire che piacque, però bene. Quindi benissimo, piccolo aneddoto. Poi finisco di nominare i musicisti. Poi il basso è stato suonato da Fabio Ponta, che è un carissimo amico con cui suono da anni, con cui tra l'altro poi un altro gruppo, il tributo ai Doors. Perché cari ascoltatori, diciamo che Roberto anche lavora, si diverte in un tributo ai Doors. Sì, suonando la chitarra elettrica. La chitarra elettrica in un tributo ai Doors, dove suoniamo insomma. Fai di tutto dei Doors. Facciamo sì. Dal primo all'ultimo album. Ma sì, facciamo proprio tutte. Sì, però. Tutte quante, però insomma, facciamo quelle più significative e ci divertiamo. Chi fa il Jim Morrison della situazione? Un amico. Lorenzo, che Jim Morrison in miniatura. Basta avere la forza. Che fa il pazzo, insomma, comunque fa il pazzo dal vivo. Insomma, sul palco. Sì. Benissimo. Si spoglia. Come faceva lui? Come faceva lui, insomma, sì, non arrivando poi, non arrivando a certe cose. Non arrivando a certe cose, insomma, però. Bene. E quindi ecco, saluto il bassista Fabio Ponta, che saluto. Al pianoforte c'è un altro caro amico che si chiama Dodo, che è Dodo Versino, che è tra l'altro il tastierista sempre del tributo ai Doors, che ha suonato così il piano. Ray Manzarek della situazione. Esatto, che tra l'altro gli assomiglia anche. Ah, bene, quindi avete scelto proprio apposta. Sì. Avete proprio cercato. Esatto. E quindi al piano, abbiamo parlato del piano. E poi saluto. Poi l'ultimo che ha suonato un altro caro amico, Matteo Portelli, che ha suonato una cordette. Che non so se c'è presente, uno strumento un po' particolare. Com'è la cordette? È una specie di fisarmonica. Che però di fisarmonica. Che è una specie di motorino interno. Ho capito. Insomma, quindi è uno strumento molto bello. Che è su. Che era un colore che volevamo dare su un pezzo, e lui l'ha suonata. Ha suonato anche il basso, in realtà. Sull'amore inizia così. Ah, ecco, perfetto. Ok. Ok, questo è. Tutti i musicisti che hanno suonato con questo. Tutti i musicisti che hanno suonato. Ok, adesso sono le 22:57. Io proporrei un altro pezzo da disco e poi facciamo il giochino che Marco conosce. Ok, e che io invece non conosco. Adesso lo conoscerai. Ok, allora un altro pezzo da disco. Ma volendo, visto che ne abbiamo parlato, potremmo anche sentire un re. Che traccia è, ti ricordi? Sì, la traccia numero 8. Numero 8. Non è cortissima, però. Però non importa, qui non si taglia niente, lo sentiamo, ok? Rock Wave Live. Spine l'hai sempre evitata, la corona pesante di oro, quella l'hai sempre cercata. Quante vite si muovono con una sola parola, e tu lo sai bene che cambiano i tempi, i modi, ma non cambia la storia. Che il sangue che scorre sia sempre più silenzioso, finché c'è chi può sanguinare senza farsi ascoltare. Le scelte d'acciaio sono scelte da re, e il Dio che si compra al mercato sarà solo con te. Tutte queste certezze come hai fatto a trovare? Perché i dubbi che non hai mai avuto qui in basso si sentono urlare. Verrà un giorno nel quale i tuoi occhi si riempiranno di lacrime per tutte le vite che non hai calcolato nei tuoi conti da re. Verrà un giorno nel quale tuo padre morente ti chiamerà vicino a sé. Figlio, ti avrei preferito diverso. Figlio, ti avrei preferito diverso. Figlio, ti avrei preferito diverso. Figlio, ti avrei preferito diverso. Figlio, ti avrei preferito diverso. Da me. Bye. Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Caro Marco, mi ha trasportato a Claudio Rocchi, cosa dici? Assolutamente, un critico l'ha scritto, ma anche io non sono un critico, però io amo fortissimamente Claudio Rocchi. Sei proprio andato nel mondo di Claudio Rocchi. Rocchi, cantautore milanese, ora vive a Roma, tra Roma e la Sardegna, ma i primi tre album proprio hanno l'essenza della tua musica. Tu non lo conosci, sei giovane, però se riesci ad entrare nel mondo di Claudio Rocchi, giustamente un critico l'ha scritto, è vero, c'è questa attinenza, questa vicinanza, chiaramente tu non lo conoscevi, però c'è molto di Claudio Rocchi, ma nel senso positivo del termine. Sì, no, io sì, non sono sincero, non lo conosco molto, molto bene, però siccome appunto non sei il primo che mi fa notare questa vicinanza, soprattutto nel modo di suonare a chitarra, della musica. Anche un spirituale, insomma. Molto spirituale. Beh, il testo è un testo importante, sì, significativo. Sì. Questa spiritualità che Rocchi ha sempre messo nei suoi dischi, dal primo all'ultimo, ce l'hai in questo pezzo, ce l'hai molto. Sì, beh, per me, insomma, quindi la dimensione spirituale, forse più passa il tempo, più sento che comunque sento che diventa sempre più importante, cioè, ho sempre più la necessità di, come dire, di esprimere, ecco, insomma, poi di esprimere questa parte, insomma, questa parte di me che poi in realtà, insomma, chiunque, certo, ha, certo, insomma, chiaramente. Quindi un re, ritornando a un re fatto al podere del Campanelle un po' di tempo fa. Sì, che tra l'altro sì, tanti anni fa suonai appunto sì, da solo davanti a 5.000 pazzo, persone per iniziare il concerto di Lati, sì, che stavano lì per ridere e che si sono trovati ad ascoltare questa mazzata terrificante. È un re, è uno dei pezzi in qualche modo al quale sono più affezionato e che ogni volta che suono dal vivo mi provoca delle emozioni molto molto forti, veramente mi si stringe lo stomaco, non so come dire, e è un pezzo con cui fino a un po' di tempo fa chiudevo i concerti. E nell'ultimo anno, dove spesso ho suonato anche appunto con una piccola band che mi seguiva, quindi finiva il concerto con questo schiaffo, questa finale, tagliata, questo, sì, che tra l'altro colpo che si sente, insomma, sul disco, ma che dal vivo, sì, poi in realtà era ancora più accentuato, quindi c'era proprio questa, è come una sorta di catarsi, sì, insomma, ecco, musicale, quindi c'è proprio, come dire, proprio un liberarsi da un re, ecco, se insomma se si segue un po' il testo, è una sorta di storia. Io non so, la definisco forse uno dei pezzi anche più teatrali, teatrali, comunque con una componente visiva forte, quindi cinematografici, se vogliamo, insomma, non so come, perché comunque è una è come se fosse, come dire, se fosse a più livelli. Quindi inizia, ecco, come una sorta di riflessione sul potere, sul potere, sulle conseguenze così tragiche che comporta, sempre chiaramente attraverso il filtro della poesia, insomma, comunque per me è troppo importante, e va a scavare dentro appunto la sofferenza, insomma, poi alla fine che c'è nell'uomo, nell'umanità, e comunque insomma nella violenza del potere, ecco, ai danni poi delle persone. Quindi c'è questa storia, quindi c'è questo re, insomma, così, che non è una non è collocato temporalmente, insomma, quindi l'andamento in realtà è anche molto antico, insomma, come dire, è un giro quasi così, potrebbe quasi ricordare qualche musica medievale, sì, insomma, no? Quindi c'è questa storia, e che poi alla fine si conclude veramente con un dialogo, no? Sì. Con un dialogo tra un padre e un figlio, e c'è questo colpo di scena finale, no? Dove c'è comunque questo padre, no? Che, diciamo così, immaginato in punto di morte, insomma, così dice al figlio, ti avrei preferito diverso, cioè questo padre, che poi in realtà è il protagonista di tutta la canzone, quindi un uomo che comunque aveva dato la sua vita per il potere e l'aveva comunque usando nel modo peggiore possibile, quindi ti avrei preferito diverso. E alla fine c'è questa c'è questo da me urlato finale che comunque ti spalanca, secondo me, ti spalanca, ecco, altri scenari, quindi comunque c'è come una redenzione, ecco, è come una redenzione finale anche dopo tanta sofferenza, tanta violenza. Poi alla fine c'è un momento di liberazione, ecco, che alla fine rende che questo padre lascia poi al figlio. Poi, sai, spiegarle le canzoni è sempre un atto... L'hai spiegato bene, in ogni caso il pezzo è molto importante. È un pezzo molto, molto, sì, molto importante, anche... anche dal punto di vista dell'approccio musicale, cioè lo scarichi nel senso positivo verso il pubblico sì, lo sente. Poi in realtà la parte finale dove c'è l'ingresso della batteria, in realtà è stato poi aggiunta successivamente. È stata, il pezzo inizialmente era solo voce e chitarra dall'inizio alla fine, quindi poi alla fine abbiamo pensato per sottolineare, ecco, questo momento finale di liberazione, volevamo farlo esplodere comunque e qua che entra Rocky quindi per quello parlavo di più livelli, esatto, no? E qua che entra Rocky, la famosa suite del secondo album, lunghissima, iniziava piano piano, poi si sviluppava in una serie di suoni incredibili. Sì, tra l'altro poi dal vivo è un pezzo che ci piace suonare, anche ci piace farlo durare ancora di più, perché comunque dopo c'è talmente tanta tensione prima, anche liricamente, certo, proprio. Quindi quando arriva questa botta finale, questa liberazione, alla fine è, come dire, è un sospiro di sollievo che uno si vuole portare più lungo possibile, certo, insomma, è come una redenzione, ecco, questo credo sia il termine che meglio la definisce. E poi finisce la batteria e ritorna il giro iniziale, certo, e si chiude il cerchio. Esatto, è quindi una specie di mantra anche questo. Esatto. Ok, visto che adesso il giochetto lo facciamo dopo, se andiamo un altro pezzo dal vivo adesso. Ok. Che cosa, allora, Roberto? Entriamo in una... Così, entriamo in una... atmosfere più intime, sì, come dire, questo il pezzo che vorrei suonare adesso si intitola Una stella danzante. Ok. Sono stanco di sentire che non si può più cambiare, che tutto è come ieri e non si può fermare. Questa storia maledetta scritta dalla vendetta sulla pelle della gente che non si è accorta mai di niente, che non si è accorta mai di niente. Ingannata dalla mente, ingannata dalla mente. Una stella danzante vestita di fiori ha lasciato nel mio firmamento una scia. Una stella danzante vestita di fiori ha lasciato nel mio firmamento una scia di colori e di suoni, di colori e di suoni. Non voglio più sentire che non è successo niente, che se scopri le tue carte rischi di essere un perdente. In questa storia maledetta, dalla mia, dalla tua fretta, voglio avere il tempo per godermi quello che mi spetta. quello che mi aspetta, quello che mi aspetta, quello che mi aspetta. Una stella danzante, una donna, un amante, ha dipinto nel mio firmamento la via. Una stella danzante, una donna, un amante, ha dipinto nel mio firmamento la via. Una stella danzante, quell'anima vagante, ha dipinto nel mio firmamento la via. Per trovare tutta la mia energia, per trovare tutta la sua energia. Bene Roberto, perfetto, molto, un pezzo molto bello, molto divertente, anche accattivante, ancora cantautorato, assolutamente. C'è una cosa che hai detto in un'intervista, che è questa: ti sei definito che cos'è il cantautore oggi? Adesso ne parliamo. La risposta è questa: credo che sia un artigiano che fabbrica oggetti non sempre ben identificati. È vero, però, che possono essere subito identificati poi. Grazie all'esibizione live. Sì, sì, è un domandone. È un domandone. Sì, sì, è la... Beh, sì, vabbè, mi piace vedere, concepire con la musica e anche quello del... quello del cantautore come un mestiere comunque artigianale, quindi comunque come un... come appunto... come un artigiano con le proprie mani, insomma, fabbrica un oggetto, così il cantautore... Da forma con la musica e con le parole a questa creatura che è la canzone, ecco. Quindi no, oggetti non ben identificati, nel senso che comunque forse mi, ecco, non sapevo bene che cosa dire, quindi mi sono usato però questa... ma poi verranno identificati con i pezzi, chiaramente, cioè sì. Col modo che hai di proporli al pubblico, certo. Sì, sono delle creature, ecco, esatto, sono delle creature. Sono delle creature che entrano così in risonanza con altre creature. Certo. E a proposito di creature, i tuoi amori, cosa porteresti? I tre dischi che porteresti sull'isola deserta? E questo era il giochetto che dovevamo fare io e Marco. Abbiamo fatto questo un po' in ritardo. Di solito facciamo alle 23, sono 23:16. Questo è un domandone. Chiaramente in questo momento. In questo momento. Tu e io, magari... ho visto cosa hai citato te nella risposta. Adesso vediamo che in questo momento cosa citi. Facciamo 3 o 5, a tuo piacimento, come vuoi. Allora. Ma forse mi porterei Non al denaro, non all'amore, nel cielo di André. Perché comunque è un disco al quale sono affezionatissimo e... L'antologia di Spoon River, esatto, quindi poeta. L'antologia di Spoon River, quindi è un disco, insomma, è dove, il master, quindi lui. Dove forse su me lui, non so, ha raggiunto, su me proprio il massimo, era, secondo me il massimo, sì, come proprio un come poesia proprio umana, insomma, anche se poi beh, chiaramente si rifaceva all'antologia di Spoon River, certo. Però insomma, comunque, secondo me, ecco, quello è un disco che del quale credo, del quale non posso fare a meno, insomma. In un'isola deserta. Poi potrei dire, perché tre dischi poi sono pochi, pochissimi. Tre dischi sia per quanto riguarda la musica italiana che internazionale. Sì, sì, sì, internazionale. Sì, questo è il nostro tempo. Mamma mia. è una mazzata, lo so. Ma forse possiamo arrivare fino a 5, dai, per darti un trend. Harvest di Neil Young. Ecco. perché sei, sei è un altro, cioè, disco ti sono, ami particolarmente, un altro disco che amo particolarmente, che in realtà poi ho iniziato. Ma quante volte l'hai sentito? Centinaia, sentito veramente centinaia e centinaia di volte, ma da quando avevo 14 anni più o meno, cioè, quando, cioè, c'era questo CD, in realtà c'era anche il vinile, però saltava abbastanza, allora c'era il CD, c'era il CD, sentiva meglio. È un disco così che ho sentito veramente infinite volte e che, ancora adesso sento. Lo trovo, ecco, lo ancora trovo, attualissimo, lo trovo magico, lo trovo, cioè, un disco, insomma, è ancora bello, un bellissimo, disco senza tempo, insomma, che lui ha la capacità di fare i dischi senza tempo. Anche l'ultimo disco che ha fatto bello disco, è molto bello, è molto Neil Young, cioè molto sembra uscito, sì. Lui va, lui fa delle cose a 20 minuti, più di 20 minuti per pezzo, perché è Neil Young, può fare quello che vuole, ma lo fa bene, fa benissimo. Sì. È ritornato alla grande, decisamente. Sì, sì, si chiama Psychedelic, no. No, ti ricordi Margo come si... No. Qualcosa... adesso non mi viene in mente. In ogni caso è un disco molto... Ha fatto Americana prima, ha fatto le cover a suo modo, sempre con i Crazy Horse. E poi ha fatto un disco alla Neil Young senza nessun problema di minutaggio. A lui non interessa i minutaggi. Se vuole fare un pezzo da 20 minuti o da 22 a 23 minuti, non importa. Lui è Neil Young e basta. Certo, no, e questa è indice di una genialità enorme, di una personalità forte. Esattamente. Penso se adesso come sarebbe per un emergente, insomma, è impossibile, quanto sarebbe, è impossibile. Esatto, è impossibile. Quindi, vabbè, abbiamo, siamo a due, Alves e Neil Young. Beh, poi in questo momento Magical Mystery Tour dei Beatles. Come mai Beatles che vengono Beatles fuori? In questo momento è il gruppo che sto ascoltando di più. Ah, bene. In questo momento. Non perché non li avessi ascoltati mai prima, però ci sono ritornato e ci sono veramente... Ci sono tante cose. Ci sono veramente ricaduto profondamente e... E anche loro, secondo me, insomma, hanno raggiunto delle vette proprio musicali senza tempo. Dobbiamo ricordare che hanno quei tempi, quindi non c'erano tutti gli aggeggi che c'erano adesso. Le vette, cioè, ogni disco dei Beatles c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. È un mondo fantastico. Questo disco in particolare, Magical Mystery Tour, che poi, ecco, che fa parte del periodo un po' più psichedelico, sì, no? Molto psichedelico. Dei Beatles, dove praticamente tu leggi la tracklist e sono tutti i singoli uno dopo l'altro, insomma, quindi inizia Magical Mystery Tour, poi pezzi con Strawberry Fields Forever, altro singolone, Hello Goodbye, finisce con All You Need Is Love, che in realtà era il singolo che aveva anticipato il disco, ma insomma, cioè, insomma ci sono dei buoni motivi per portarselo su un'isola, certo, secondo me, ecco. Vabbè, poi dopo questo fecero il White Album, giusto per tanto per... per rimanere, insomma, sì. Quindi vabbè, questo terzo dei Beatles, poi per esempio, ecco, volendo magari avvicinarci un po' con gli anni, beh, un disco che a me piace moltissimo, non so se lo conosci, No Code dei Pearl Jam. Cioè, Marco, lo conosciamo No Code dei Pearl Jam? Io un disco che amo, forse poi come mai hai scelto non è No neanche, Code di... non è neanche perché considerato da tanti poi come il più bel perché disco hai scelto di quel particolare disco tu perché vuoi. Quello è un disco, secondo me, un disco di passaggio nella discografia, nella discografia dei Pearl Jam, dove si sentono molte influenze, tra cui si sente anche, ecco, appunto si sente molto anche Neil Young, nel periodo in cui poi fecero anche una tournée insieme, fecero un disco insieme, quindi quindi lasciarono, forse diventarono leggermente più morbidi rispetto ai primi lavori, che erano molto più aggressivi, insomma, cioè i primi dischi erano, ecco, il suono grunge, insomma, un po' più all'inizio anni 90, quindi in questo disco si ammorbidirono leggermente, quindi uscirono più chitarre acustiche, una fase diversa, e tra l'altro, e comunque è anche un po' il disco, se vogliamo, un po' più anche psichedelico di Pearl Jam. Infatti No Code è un disco, appunto, che non ha, no, che non, sì, che non ha una, non ha esatto, che non ha un inizio né una fine, insomma, esatto, ma certo. e quindi ci sono queste, ci sono vari pezzi, ecco, molto visionari, e è un disco, ecco, che mi fa viaggiare, ecco, insomma, ma allora avuto sempre la capacità di cambiare spesso e volentieri, ogni disco cambiava, ogni disco hanno la possibilità di cambiare, ma cambiano al loro modo, alla Pearl Jam, da Ten in su praticamente. Sì, sì, poi ecco, per esempio gli ultimi lavori a me non mi fanno impazzire. Cioè, sono affezionato, gli sono grato per sempre, perché comunque è un gruppo che ho amato, che amo, quindi insomma, quindi come dire, rimango nel mio cuore, ecco. Io ho sempre amato. Chiaramente no. Ce ne sono altri. Io Ten, mi dispiace. Sì, lo so, sono d'accordo. Però quello. Sì, sì, quello è un disco, cioè, dei pezzi fantastici. Dopo è stato ristampato, una versione particolare, sì, sì, tutto quello che vogliamo. Però quello ha aperto la strada. Poi. Sì. Vabbè, ne abbiamo fatti tanti, sì. Sempre di ottimo valore. Ecco, No Good, ecco, un altro disco che mi porterei. E poi c'è ancora uno, dai. Uno. Puoi spararne ancora uno. Uno che mi posso sparare. Oddio, ma visto che, beh, anche perché si presta anche proprio all'isola, c'è un disco fantastico di Battisti degli anni 70, che in realtà ho scoperto anche poco tempo fa, che è Anima Latina. Sì. Anima Latina, tra l'altro, rimanendo un po', so che tu sei un po' un appassionato di prog, quindi questo è il disco molto particolare. È un disco, il disco di Battisti. Non è stato molto capito. È stato capito in parte rispetto, ecco, alle vendite colossali degli altri. Quello, dischi. Insomma, è un disco. È un disco che musicalmente veramente veramente interessante. È molto molto strano, molto importante. Sì, sì. Visto, ecco, l'ho scoperto relativamente da poco. Magari, ecco, me lo potrei portare. Benissimo, Anima Latina di Lucio. Poi anche molto, ecco, appunto, latino, insomma, l'anima latina, insomma, su un'isola si trova bene. Va bene. Ok, sono le 23:24. Marco, abbiamo un altro pezzo da disco oppure no? Cosa dici? Sì, sentiamo l'ultimo pezzo della scaletta da disco, forse. No, ce ne sono ancora due. Beh, sentiamo, cosa hai scelto, allora, Roberto? Che cosa c'avevo? Allora, la 3, la 5, la 6. Vabbè, ok, sentiamoci un altro il pezzo d'apertura del disco, che è un altro brano, come dire, abbastanza melodico. Sì. Lo sentiamo e poi ne parliamo, ok? Che è l'invisibile presente. Cos'è? Rock Wave Live. Cambiano con me, i giorni sono tanti, ma pochi quelli che diventano un motivo per riuscire a credere che ci vuole fantasia per rispondere di sì alla tristezza che domanda di passare ancora qui. E le ali della mente si sono aperte già, liberandomi il presente dall'immobilità. L'imprevedibile logica dei sensi che mi avvicina a te. I giorni sono tanti, ma pochi quelli che risplendono di luce incomprensibile. Ma ci vuole fantasia per rispondere di sì all'amore che pretende di passare ancora qui. E le ali della mente si stanno aprendo a l'invisibile presente che mi sta cambiando già, l'invisibile presente che mi sta cambiando già, l'invisibile presente che mi sta cambiando già. Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Abbiamo sentito il brano d'apertura del disco, ripetiamo il titolo. L'invisibile presente. Bello, bello anche questo. Muove, giustamente, un brano d'apertura. Brioso. È brioso, deve avere brioso. Quelle caratteristiche. Sì, giustamente. Sì, divertente. Esattamente. Mentre il pezzo andava, io e Roberto... Abbiamo parlato delle recensioni positive che hanno accompagnato il disco, di cui una di Mario Giannetti. Mario Giannetti, già, se voi non lo conoscete come giornalista, ma è forse il più grosso esperto dei Genesis in Italia. Ha scritto un sacco di libri dei Genesis, proprio è dentro al mondo dei Genesis, e ha parlato stupendamente bene di te. Prima, che meraviglia al debutto del giovane cantautore. Già una frase, che meraviglia, cioè non è un giornalista qualsiasi, uno che ha tanta musica nel sangue, ha sentito tante cose e lui è rimasto veramente entusiasta del tuo disco. Mi pare giusto, è così, così. Perché sono critiche positive, perché hanno sentito il disco, sono entrati dentro nel vagan, come parafrasando il titolo dell'album, sono entrati anche loro, i giornalisti critici, e modestamente siamo entrati anche noi, ti abbiamo ospitato, e a noi è piaciuto notevolmente il disco. No, vi ringrazio, come quindi dicevo, appunto, mi sto divertendo, mi sento, ecco, come a casa, quindi, ed è bello comunque, ecco, insomma, scambiarsi così, riflessioni, e comunque si sente, ecco, la passione che vi anima, che non è scontata neanche in questo ambiente, insomma. E poi la passione che ci anima, quando tu citi Joe Strummer, è già un positivo quando hai citato Joe Strummer. Quando ci scrivi Joe Strummer, citandolo, tu hai detto, scrivo canzoni di protesta quando sono un cantante folk con chitarra elettrica. Questo l'ha detto Joe Strummer, non uno qualsiasi, era Joe Strummer. Sì. Sì. E poi, non è detto che il folk e protesta sia questo binomio che non si possa unire, assolutamente. È bello, è interessante. Non è che facciamo per voler citare Joe Strummer, perché Joe Strummer è un musicista di un certo tipo, ha fatto un certo percorso. Sì, nel senso... Sì, non sento, sì, hai detto tutto tu. Nel senso che Joe Strummer è di Clash, insomma. È Clash, ragazzi, Clash hanno dato un peso, non da poco. Sì, no, perché poi sono riusciti a unire varie sono usciti ad unire comunque il rock and roll, certo, alla protesta, insomma. Il punk è nato, esatto, quello... sì, il punk e poi sì, anche sì, il punk e anche il rock and roll, sì, certo, insomma, certo, loro avevano questa capacità, esatto, di unire poi molte più sì. Ma è interessante che tu abbia citato Joe Strummer. Siamo molto contenti. Marco è un grosso stimatore di Clash, e quindi conosce a memoria tutto quanto dell'epopea Clash, chiaramente. Sì. È una cosa molto positiva. Sono 23:32, adesso positivamente suoniamo un altro pezzo. Che cosa? Allora, che sarebbe l'ultimo pezzo dal vivo? Beh, ne possiamo fare altri se sei nel... Ok, puoi allora fare anche una cover se vuoi, a tuo piacimento. Una cover non... Come vuoi. Allora, facciamo una cosa. Puoi ripetere anche i pezzi che non hai che ok non hai. No, pensavo, siccome io nel frattempo adesso sono qui, sono venuto per presentare l'album, questo disco, diciamo che ne hai un sacco di fronte, esattamente. Nel frattempo, da 10 giorni ho iniziato le registrazioni del mio secondo disco, che è un po' diverso, che sarà molto diverso, molto, cioè, molto diverso. Possiamo dire una cosa, me l'hai detto prima di iniziare il programma, quindi circa due ore fa, hai detto questo, sì, questo disco che abbiamo presentato, che stiamo presentando adesso, una specie di greatest hits, cioè una serie di raccolta di tutti i miei amori musicali, i miei pensieri, le mie opinioni, i miei flash che sono entrati in questo disco. Sì, sì, sono delle canzoni, non sono nuovissime, nel senso comunque ho impiegato più o meno 2 anni alla fine a realizzarlo, anche per scelta, per poter fare le cose comunque con calma, per fare cose in una certa maniera, visto che non avevo pressioni di nessun tipo. Tra l'altro avevo iniziato con un produttore con il quale poi le cose non andarono per il verso giusto e alla fine decisi di fare tutto, appunto, autoprodotto assieme al tuo amico, coprodotto fonico. Diciamo, sì, coprodotto con questo amico, e che aveva il fonico di questo studio, e quindi decidemmo di farcelo, insomma, da soli, in un'atmosfera rilassata, senza fretta, e quindi ecco, avendoci messo un po', quindi nel disco poi sono andate tutte quelle canzoni che avevo accumulato nel corso degli anni, e realizzandolo, chiaramente durante la realizzazione ho continuato a scrivere molte altre canzoni, avendoci messo 2 anni, in 2 anni di canzoni se ne scrivo, almeno io non ne scrivo tante, perché è la cosa che mi piace di più, ma continuo a scriverle quindi ho un materiale veramente notevole, insomma, quasi per altri 2 o 3 dischi, però. E quindi c'era l'esigenza, ecco, di registrarne subito un altro, insomma, poi anche proprio per non far invecchiare troppo i pezzi, insomma. Quindi ecco, in questo disco ho quasi rischiato, insomma, di farlo uscire fuori tempo massimo, cioè, insomma, ecco. Che era già vecchio. Sì, cioè. Poi ci sono in realtà delle canzoni. Ecco, comunque... tu dicevi una cosa giusta, sembra il microfono spento qualche minuto fa, che dal vivo certe cose le rifai, le fai sentire, certe altre non che non le ami ancora, non le ami più, però le lasci da parte. Ci sono delle cose, sì, che in questo momento non mi rappresentano di meno, e quindi scelgo di non provo meno piacere nel suonarle, semplicemente, ecco. Ecco, quindi invece ce ne sono altre che suonano sempre con la stessa identica partecipazione, come ad esempio un re, come anche quelli che ho suonato prima. E visto che, appunto, sto in questo momento di preparazione e anche di allargamento dei fini musicali, certo. Perché dicevi che stavolta il rock prenderà leggermente piede, sarà sicuramente un disco più suonato, quindi ci sarà la batteria in quasi tutti i pezzi, così quindi come fissa il basso, la batteria, così come il basso, tra l'altro suoneranno sempre gli stessi musicisti che hanno suonato qua. Sì, poi si aggiungeranno anche altri musicisti, quindi ci saranno delle chitarre elettriche. Quindi ci sarà una band vera e propria. Ci sarà una band vera e propria, e anche da un punto di vista musicale, insomma, ci saranno delle sorprese, nel senso che ci sarà anche un'attitudine sicuramente molto molto più rock, insomma, quindi... che tu nasci dal rock. Secondo me, cioè, nasci da quel movimento, sì, folk, sì, però ami anche Springsteen, poi, non l'hai citato. Cioè, come no, Springsteen, sì, sì, è un altro dei... dei tuoi miti, per te. Sì, è un altro dei miei maestri, poi ecco, non sono un grande fan delle sue ultime cose, però, insomma, Springsteen, insomma, vuol dire... Il boss. Sì, insomma, un'energia di quel tipo difficilmente tu si vedrà. Tu nell'intervista hai citato Nebraska come disco tuo, dal punto di coerenza, di legamento, di liaison fra le loro. Sì, Nebraska di Springsteen è forse il disco che mi emoziona di più. Chitarra e voce, ragazzi. Chitarra e voce, un disco registrato con 4 piste. Sì, quindi... quindi totalmente, insomma, senza un disco dove esce fuori proprio l'anima, secondo me, ecco, sono tutte prove praticamente. Sì, esatto, non le prove, dei provini che poi provini, esatto, poi è diventato un album. Arrangiare, invece, alla fine si rese conto, insomma, che funzionavano benissimo così. Ecco, è un disco è il disco più intimo, no? Suo, forse per quello mi tocca particolarmente. Poi sono un amante anche dei dischi storici come Darkness, On the Edge of Town, Born to Run. dove chiaramente c'è lo Springsteen energetico, insomma, no? Quindi la grande band che ha sempre band. Avuto. Quindi, insomma, anche quello chiaramente mi ha, insomma, me lo porto dentro. Nebraska però ha quella magia che quella, anche quel suono così scuro, così esattamente, così pieno un po' di fantasmi. Quindi l'idea di portare la band col nuovo disco è positiva, cioè vuol dire allargare gli orizzonti. È stata un'evoluzione naturale. Un'evoluzione naturale. Sta vagando dentro, poi le cose stanno cambiando. Esatto, stanno cambiando e non vedo l'ora veramente di far uscire questo nuovo disco, che sarà molto diverso. Secondo me, ecco, magari spiazzerà anche un po', ecco, chi ha mai ascoltato questo disco. Non credo che siano migliaia di persone, no, però, ad averlo ascoltato. Sicuramente però, c'è stato un movimento, assolutamente. Però, insomma, diciamo, cioè, nel circuito indipendente, insomma, sì, ha avuto un così. Le recensioni sono state tutte ottime, e quindi qualcosa ha mosso decisamente. Cosa suoniamo? Quindi, ecco, qui magari volevo farvi ascoltare un pezzo, un inedito. Un inedito, new entry per noi. Un pezzo. Una new entry, un pezzo un po' scanzonato. Che si intitola Canzone d'emergenza. Ok, ve la faccio ascoltare in anteprima. Canzone d'emergenza, sempre pronta per ogni evenienza. Se vuoi vedere ad esempio il cielo in una stanza, canzone d'emergenza, quando arriva su tutto la precedenza. Se lei non ci avviene in soccorso con gran competenza, canzone d'emergenza, se hai bisogno in una notte più intensa di fare ad un piccolo foglio una gran confidenza, di fare ad un piccolo foglio una gran confidenza. Canzone d'emergenza, quando hai visto troppa violenza, sono solo 4 minuti in soccorso della coscienza. Canzone d'emergenza, quando canti per la sopravvivenza, sono solo 4 minuti in soccorso di un'esistenza. Canzone d'emergenza, se vuoi mettere in salvo la sostanza e buttare giù dalla torre ogni apparenza. Canzone d'emergenza la può scrivere solo chi ha molta esperienza. Quanti segni sul viso, ma quanta potenza. Quanti segni sul viso, ma quanta potenza. Canzone d'emergenza, quando hai visto troppa violenza, sono solo 4 minuti in soccorso della coscienza. Canzone d'emergenza, quando gridi tutta la tua innocenza, sono solo 4 minuti in soccorso di un'esistenza. Canzone d'emergenza, se sei quasi morto di indifferenza, sono solo 4 minuti alla tua vita donati d'urgenza. Sono solo 4 minuti che ti salvano un'esistenza. Sono solo 4 minuti alla tua vita donati d'urgenza. Na na na na na na na na na na na na. Beh, bella, è una novità assoluta per noi, scanzonata sì, ma fino a un certo punto di vista. Sì, sì, la canzone hai, c'è uno, ci sono dei musicisti che hanno sempre la chitarra davanti, vicino al, in qualsiasi posto della casa, in qualsiasi momento, tu sempre in qualsiasi momento hai sempre la voglia di scrivere, hai sempre un taccuino pronto. Beh sì, sì sì, sì, sì, un quadernino. Quindi la canzone è sempre è un modo per esprimere qualsiasi momento quello sì, che, sì, che senti. Allora, è una valvola di sfogo. È una necessità. Una necessità, questo, assolutamente. È un modo per... Sì, sì, è una necessità che ho sempre avuto. Quando ero un bambino scrivevo magari a scuola, scrivevo i temi, insomma, e lì mi lasciavo andare, ecco. Poi ho scoperto magari la forma della canzone e mi sono dedicato a questo. Ma in generale poi... Quindi nella canzone mi piace utilizzare la canzone come mezzo, poi in realtà mi piace scrivere, mi piace anche scrivere poesie, pensieri, mi piace giocare con le parole, mi piace riuscire a trovare così mi piace riuscire a dare vita con le parole, ecco, non so come dire, insomma, e quindi e ogni momento quindi è buono, insomma, ogni momento... Di solito c'è come un pensiero che inizia a girare in testa, bisogna scriverlo immediatamente, inizia a girarsi e quindi magari esce fuori una frase e poi è come se da una frase iniziasse, come dire, iniziasse l'inizio del viaggio. È come tanti cerchi concentrici, cioè si inizia dal primo e poi si inizia, io uso come... Come lavori per te in questa maniera? Questo è il mio sempre modo... nella tua camera? Di solito, sì. Una volta cominciavo nella tua camera a lavorare. Sì, poi adesso diciamo... Poi le cose sono un po' cambiate. Poi sì, poi diciamo, ecco, ma in realtà ovunque, insomma. Sì, ovunque, chiaramente. Per non che il discorso ti abbandoni, come fai? Beh, per quanto riguarda... Beh, il testo chiaramente fisso subito quando c'è qualcosa che mi... Così, che mi emoziona, insomma, che comunque sento che vale la pena di essere fermato, quindi scrivo. Poi per esempio ho un registratore, ecco, adesso scusa, il registratore, ho un piccolo registratore mio digitale, perfetto, da 4, quindi capta immediatamente quello che mi serve, mi porto sempre in giro dovunque vado, perché comunque di solito mi porto sempre poi la chitarra in giro, insomma, veramente ovunque, quindi anche se poi non la suono, però c'è sempre dietro, non si sa mai. E quindi questo registratorino che così, che nel quale, sul quale fermo, ecco, magari dei giri musicali, delle piccole, qualunque cosa mi piace, insomma, e quindi lo fermo per non dimenticarlo. Adesso fermiamo i tuoi messaggi importanti. Disco dove si può trovare? Questa è una bella domanda. Allora, intanto si può trovare, diciamo, il tuo sito. Allora, il mio sito, in realtà io, diciamo, in questo momento non ho un vero e proprio sito ufficiale, nel senso ho una pagina Facebook ufficiale che è www.facebook.com/officialrobertoscippa. Perfetto. E, dove insomma ci sono notizie e notizie inerenti a te, cioè. Esatto, quindi concerti, sì. Insomma, informazioni varie. Poi ho una pagina MySpace dove si possono ascoltare anche alcuni poi brani del disco, che è www.myspace.com/robertoscippa. Vabbè, ho una pagina Facebook normale con il mio nome dove insomma, dove in realtà poi spesso insomma mi trovo a smessaggiare. Poi ho varie, perché ormai con il mondo, no, dei social networks ci sono una marea di, no, di piattaforme, quindi cioè, sono anche su Bandcamp, dove in realtà c'è anche tutto il disco in streaming. Ho capito. Tra l'altro, quindi se qualcuno volesse ascoltarlo, quindi se bandcamp.com/robertoscippa, credo. E invece per quanto riguarda il disco, allora, che, intanto, a proposito, dobbiamo sottolineare una cosa, che il libretto è fatto molto bene. Chi l'ha fatto il libretto? Il libretto è stato fatto, tra l'altro, ecco, grazie per avermelo ricordato, il libretto è stato fatto da un caro amico che saluto, in questo momento c'è un vuoto e non abbiamo libretto, non mi viene il nome, madonna, questa è una brutta figura, Vabbè, comunque. Beh, lo riprendiamo più tardi nel prossimo intervento. No, vabbè, non c'è un lapsus enorme. Beh, questo tuo amico ha fatto grafico, insomma, ha fatto una cosa molto bella. Ha fatto molto un lavoro, ricercato. Sì, insomma, anche squisita, fatto bene, molto bene. Quindi ci si è divertito. Mm-hmm. Carlo. Ecco. Scusami, Carlo. Carlo. Se sei l'ascolto, Carlo. È riuscito a ricordarsi. Ti saluto, Carlo. Si è divertito insomma, c'è un lavoro, ecco, non da poco, c'è un lavoro non da poco anche nel libretto, quindi purtroppo, ecco, secondo me avrebbe tutte le carte regola per stare in un negozio, diciamo. I negozi spariscono, non ci sono, ci sono pochi negozi, però non è nei negozi in questo non è momento, distribuito non è distribuito in questo momento, poi chissà in futuro. Esattamente. Però per chi lo volesse trovare, ha varie possibilità. Allora, intanto il disco è su iTunes, quindi ad un costo comunque ridotto, quindi è scaricabile là. Esatto, è scaricabile, quindi sul mercato digitale, quindi iTunes e tutti gli vari altri store digitali. E invece, per chi volesse il disco fisico, i tuoi concerti, esatto, o viene ai miei concerti, oppure mi può contattare sulla mia email o tramite la mia pagina Facebook con un messaggio. Visto che ci sto, dico anche la mia email. Perché no? Beh, volentieri. La mia mail, che spero che ve la ricordiate. Prendete appunti se qualcuno fosse interessato. Robert Music@tiscali.it. Comunque si trova sulla mia. La mia email si trova sulla mia pagina Facebook. Quindi, se qualcuno fosse interessato, la trovo lì e mi può mandare un messaggio anche tramite Facebook, semplicemente. Perfetto. Dove mi chiede il disco e io glielo spedisco. Certo. Ti ricordi qualche concerto di recente, fra poco? A breve non ho delle date a breve, anche perché in questo momento preciso sto veramente molto concentrato sulle registrazioni del nuovo disco, quindi sono proiettato in questo. Sicuramente arriveranno nuove date, però adesso non. No, in realtà sto dicendo una stupidaggine. Ma penso, vabbè, sono domani sera a Roma. Vedi. Vabbè, in realtà non è un concerto mio, nel senso, apro il concerto di una amica, una cantautrice molto brava, canta in inglese lei, Valentina Valeri si chiama. Che tra l'altro che sta presentando il suo disco di esordio, molto molto brava, e aprirò il suo concerto, suonerà una mezz'ora in versione one man band. Bene. Al Soul Kitchen a Roma. Bene. Un locale. Quindi domani sera, domani sera, 17. Esatto, domani 17, per chi fosse a Roma, insomma, domani suonerò una mezz'ora, giovedì dalle 21 dalle 20 alle 22. Dalle 21 alle 22? No, io suonerò alle 22. Ah, cioè il concerto, cioè lo spettacolo dalle 20, esatto, alle 22? No, dalle 22 in poi. Ah, dalle 22 in poi, pardon. Io suonerò intorno alle 22. Perfetto, perfetto. Ok. E quindi questa è la prossima data, quindi la data, sì, recentissima, quindi domani. È una mezz'ora, insomma. Sì, quindi domani, fra 10 minuti, praticamente, oggi. Sì. Assurdo che non mi ricordavo. Benissimo, sono 23:50. Allora, secondo me, abbiamo un altro pezzo da disco oppure no? Abbiamo finito tutti? No, abbiamo. Hai 10 minuti da gestire come vuoi. Quindi il pezzo, l'amore inizio. Lo puoi suonare o lo facciamo sentire da disco? Ma. Cosa dici? Potrei anche suonarlo dal vivo. Suoniamolo dal vivo, dai. Facciamo due pezzi per concludere la serata. Innanzitutto facciamo questo, che il pezzo che abbiamo lanciato io e Alberto come apripista, secondo noi, del disco. Era molto bello, un pezzo molto bello, molto interessante. Ok. Adesso sta mettendo al posto l'armonica, è fondamentale, l'armonica. Eccola qua. Anche qui la versione live con l'armonica sul disco, invece, no? Ci sono i violini. Esattamente, ci sono i violini, però. Però l'armonica in questo pezzo. Non guasta. No, in questo pezzo. Adesso lo sentiamo. Thank you. sorriso senza preavviso, una goccia di intenso blu in un oceano di metallo, sei arrivata tu. In un oceano di metallo sei arrivata tu. Amore senza risposte, amore senza domande, nel mistero dei tuoi occhi la calma e la pazzia danno un volto alla poesia. E anche se non mi conviene, toccandoti sento che viene sollievo a tutte le pene, e intanto il piacere ci chiude gli occhi, ci chiude gli occhi, e forse è meglio così. Anche se non mi conviene, toccandoti sento che viene il tuo respiro nelle mie vene, e intanto il piacere ci chiude gli occhi, ci chiude gli occhi, ci chiude gli occhi, e l'amore inizia così. Bellissima, l'abbiamo scelta io e Alberto per lanciare il disco, è piaciuta molto e ripetiamo, piacerà sicuramente. A proposito di questo, Alessandro Basile di Caffè News ha scritto: Vagando dentro è un collage di grandi brani che varrebbe ascoltare anche una sola volta per capire che non si esagera. Noi consigliamo di ascoltare più di una volta, assolutamente. Grazie. Bene, caro Roberto, abbiamo concluso questa cavalcata molto bella sulla tua prima esperienza discografica. Abbiamo sentito che è già pronto qualcosa di nuovo, quindi ci rivedremo. E certamente ti invitiamo ufficialmente per il secondo album, quello che è già pronto, che uscirà sicuramente con lo stesso team, probabilmente. Sì, dal punto di vista dei musicisti, sì. Sì, non so la come produzione. Esatto, perché l'etichetta esiste, questa etichetta vostra, tua praticamente, tua. Sì, diciamo, per quanto riguarda questo primo disco. Questo sì, primo disco, pagando sempre. In realtà sono, diciamo, comunque mi guarderò intorno mi piacerebbe avere una struttura un po' diversa per questo disco. Un po' più struttura. Esatto, sì, un po' più di forza, perché poi alla fine la pubblicità vuol dire conta conta, perché comunque le date le cerchi te, praticamente fai tutto te, o no? Ma più o meno adesso sì, più o meno sì, diciamo, one man band in tutti i sensi, anche su questo sì, più o meno sì, quindi ecco, insomma, è un po' faticoso fondamentalmente. Vabbè, siamo in tanti, per carità, però ecco, insomma, siccome mi piacerebbe fare un salto, ecco, anche un salto anche in questo senso, con questo nuovo disco che uscirà, non so quando, sinceramente. Però uscirà sicuramente. uscirà e con piacere, insomma, se mi inviterete dovrò presentarlo. Ma ben volentieri, sicuramente. Grazie a Roberto Scippa che ci ha presentato Vagando Sempre, Vagando Dentro, scusate. Grazie a Marco Borgato in regia. Che cosa concludiamo questa cavalcata bellissima nella tua musica? Con un ultimo pezzo? L'hai, sì, lo devi fare. Ok, un pezzo deve essere un pezzo un po' come corto? No, fai un pezzo come vuoi. Ok, allora, piacere. Così proprio per chiudere il cerchio, visto che abbiamo iniziato con Il mio corpo di cristallo, che... Sì. Che chiudo con Il mio corpo di cristallo in versione live. Benissimo, okay. Benissimo. Grazie. Quindi così vi saluto con questo che io definisco un mantra, ecco. Perfetto. Un pezzo che potrebbe continuare. Grazie a voi per l'accoglienza e a tutti quelli così che insomma sono stati, certamente, hanno avuto la pazienza, la voglia di stare ad ascoltare, insomma. Grazie a te, buonanotte a tutti. Domani Agostino Suppolla ore con Giulia Daici, una cantautrice che canterà in friulano totalmente. Bello. Ci stiamo preparando, ecco, ok. Carne e ossa, aria e sangue, il mio corpo di cristallo soffre e fa domande. Carne e ossa, acqua e sangue, il mio corpo di cristallo, la magia più grande. Luce densa nelle mie vene, dove sostanze ed emozioni danzano insieme al ritmo di un cuore tamburo che batte il tempo per lasciarmi ancora vivo. Che batte il tempo per lasciarmi ancora vivo. Che batte il tempo per lasciarmi ancora vivo.